non credere. Se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso, più lo stesso, più lo stesso, più lo stesso. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. Il vero amore può nascondersi, confondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre e per sempre. Dalla stessa parte mi troverai. Pioggia e sole, e sole.